Perfetto giorno di Simone Spezia. Elezioni in Sicilia, lo spoglio vede Musumeci in vantaggio e testa a testa con Cancelleri, affonda il PD. E Di Maio cancella il confronto con Renzi, non è un competitor, la replica, scuse ridicole, ha paura. Ressa di Piazza San Carlo, primi avvisi di garanzia, sindaca di Torino e il questore della città indagati. Maltempo, forti disagi in Campania e Calabria, torna la neve in quota anche a Cortina. Nuovi arrivi di migranti previsti in giornata, si indaga sulle 26 ragazze morte durante la traversata. Il calcio, rallentano Napoli e Inter, tengono Roma e Juve questa settimana nazionale in campo per le qualificazioni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video, se volete potete dunque vederci e potete anche commentare là se lo credete. In assistenza in redazione torna Laura Faggini, in regia Valeria Bernardi. Iniziamo dalle elezioni in Sicilia. Un primo punto sui numeri e su quello che sta succedendo nel quartier generale di Nello Musumeci con Nino Amadore. Buongiorno Nino. Buongiorno a tutti. Sì, siamo arrivati a quasi poco più di 1100 sezioni scrutinate in questo momento, e Nello Musumeci, che è il candidato del centrodestra, è in vantaggio con il 39,2% dei voti su Giancarlo Cancelleri, che è candidato dei 5 Stelle e fin qui ha totalizzato il 35,1% dei voti. Micari, il centrosinistra, è al 18,6%, Fava è invece il candidato della sinistra intorno al 6%. Qui al comitato elettorale di Musumeci c'è un moderato ottimismo, ovviamente non si nasconde intanto la piccola soddisfazione. Lui, Musumeci, sta seguendo da casa lo spoglio e dalle imparaci fanno sapere che sarà qui presente nel comitato quando più o meno si arriverà al 70% dei seggi scrutinati, insomma quando il dato sarà in qualche modo consolidato. I seggi da scrutinare, si ricorderà, sono 5.300. In compenso intanto è arrivata a Catania Giorgia Meloni, che è leader di Fratelli d'Italia. Le liste della destra, che sono diciamo riconducibili a quell'area di Fratelli d'Italia e diventerà bellissima, che è la lista di Musumeci, secondo diciamo i dati riferiti dallo staff dello stesso Musumeci, stanno avendo una buona affermazione. Per il momento è tutto. Ti ringrazio, grazie a Nino Amadore. Ci spostiamo nel luogo dove ci si leccano le ferite, ossia la sede di Micari, dove si trova Micari, per parlare però anche della soddisfazione del Movimento 5 Stelle. Facciamo un punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno, io mi trovo qui a Palermo in Via della Libertà ed è appena arrivato il segretario regionale del PD, Fausto Raciti, che ha ammesso la sconfitta. Nessun commento invece di Fabrizio Micari. Comunque Raciti ha detto che non può essere preso come dato nazionale quello siciliano, anche se pesano le divisioni con Fava, candidato della sinistra. Ma proprio per questo è già scontro tra PD ed ex, il risultato deludente con i Dem, che in Sicilia si fermano al momento, ricordiamo, con 704 sezioni scrutinate su 5.300 al 18,5%, non soddisfa il Nazareno. Ettore Rosato, capogruppo alla Camera, accusa: il risultato è stato segnato da quando la sinistra ha deciso di non sostenere Micari e ci hanno praticamente fatto perdere, con il chiaro intento di farci perdere. Ma il ruolo di Matteo Renzi, afferma anche Rosato, non si discute. E c'è poi la reazione del Presidente del Senato Pietro Grasso: imputare il risultato a Grasso è una scusa patetica, utile solo ad impedire altre e più approfondite riflessioni. Buono il risultato di Giancarlo Cancelleri, che si trova a Caltanissetta dei 5 Stelle, nelle sezioni scrutinate arriva al 34,4% ed attesa tra poco una dichiarazione dello stesso Cancelleri. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento. Si è votato anche in un luogo piccolo ma simbolico, ossia il municipio di Ostia. Sentiamo. L'astensionismo e l'ascesa di Casa Pound. In attesa del ballottaggio sono due i dati salienti del voto di Ostia. La scarsa affluenza, 36%, una delle più basse di sempre. Solo un elettore su tre ha votato. E poi l'exploit dell'estrema destra che dall'1,8 delle scorse comunali balza al 9, rischiando così di essere l'ago della bilancia al ballottaggio, anche se un eventuale apparentamento viene escluso da Casa Pound. Il candidato Luca Marsella. Non faremo apparentamenti con i partiti, insomma, vecchia politica, chiaramente ancora presto per parlare, dobbiamo sentire i vertici nazionali e poi prenderemo, insomma, una posizione ufficiale. Intanto scaldo di motori in vista del duello finale. Monica Picca di Fratelli d'Italia, candidata unitaria del centrodestra che ha ottenuto il 26,7, e Giuliana Di Pillo, espressione della maggioranza pentastellata in Campidoglio con il 30,2, risultato però ben al di sotto di quello portato a casa da Raggi nel 2016. Ma i 5 Stelle cantano lo stesso vittoria. Enrico Stefano, vicepresidente della Assemblea Capitolina. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito a Ostia e dall'altra parte c'è un po' una ammucchiata tutti gli altri partiti che non si sa bene dove possa portare. Fuori dai giochi invece il PD con il candidato Dem Atos De Luca che ottiene solo il 13,6. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ed è su questi risultati deludenti per il Partito Democratico e si concentra l'attenzione in queste ore anche a livello nazionale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, reazioni politiche che vedono l'evidente soddisfazione del centrodestra per il risultato che va concretizzandosi in Sicilia, con una coalizione che a questo punto spiegano da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia a tutte le carte in regola per riproporsi tra pochi mesi nel voto di primavera. Ma di questo parleremo tra breve. Al centro del dibattito di queste ore vi è il vero e proprio colpo di scena di Di Maio, che ha annunciato che non parteciperà domani sera al faccia a faccia con Renzi, che doveva tenersi, lo ricordiamo, sulla 7. Non è più lui il mio competitor, spiega il leader del Movimento 5 Stelle, per il quale il terremoto del voto in Sicilia per il PD ha completamente cambiato questa prospettiva. Siamo la prima forza politica del paese, dice ancora Di Maio dal PD. La replica di Renzi pochi istanti fa, oggi Di Maio scappa. Mi spiace pensare che gli italiani rischino di essere guidati da un leader che è senza coraggio, che ha paura di confrontarsi. Renzi torna quindi ad ammettere la sconfitta, ma a chi lo critica ricorda chi è il leader del PD. Lo decidono le primarie, non lo decidono le correnti. Quanto al confronto TV, Renzi dice: io ci sarò. Dalle ultime indiscrezioni, Simone, sembra che potrebbero esserci due interviste da Floris, un confronto indiretto Renzi Di Battista. Dicevamo infine del centrodestra che esulta. La cosa certa è che il governo è stato sfiduciato dall'80% dei siciliani, dice Salvini. Ora scioglimento del Parlamento ed elezioni subito. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Veniamo ai fatti di Piazza San Carlo a Torino. Lo ricorderete, la ressa dopo la finale, durante la finale di Champions League. Sono arrivati i primi avvisi di garanzia. Filomena Greco da Torino. Buongiorno Filomena. Sì, buongiorno a voi Simone. Così la vicenda di Piazza San Carlo arriva ad un passaggio importante con questi avvisi di garanzia che questa mattina hanno raggiunto, fra gli altri, la prima cittadina Chiara Pendino e il questore Angelo Sanna. L'indagine per reato di omicidio colposo e lesioni coinvolge una ventina di persone in tutto, in capo a diversi enti e istituzioni impegnate su organizzazione e sicurezza. Il comune anzitutto, quindi, con l'avviso all'ex capo di gabinetto Paolo Giordano e il direttore del settore, con una dirigente, oltre naturalmente alla sindaca. Poi la questura col capo di gabinetto e il dirigente del commissariato centro, che quella notte aveva il comando materialmente delle forze dell'ordine. Poi ancora Turismo Torino, che è l'ente che materialmente ha organizzato quell'evento, con i due più alti dirigenti coinvolti in realtà in questo caso sin dalle prime ore successive agli incidenti. La notte del 3 giugno, dicevate, i feriti furono, lo ricordiamo, 1500, molti hanno riportato danni permanenti, una donna quella sera perse la vita. La ricostruzione di questi mesi è partita proprio da quell'ondata di panico in piazza per arrivare poi alle forti carenze e criticità nella fase di organizzazione dell'evento e nella fase di implementazione delle giuste condizioni di sicurezza, a cominciare per esempio dalla presenza di venditori abusivi in piazza sin dalla prima ora del pomeriggio, di conseguenza di vetri e bottiglie che, rompendosi durante la calca della folla, hanno poi provocato quella sera il ferimento di centinaia di persone. In una nota diffusa poco più di un'ora fa, la sindaca Chiara Pendino ha reso noto, appunto, di aver ricevuto l'avviso di garanzia. Offrirò come sempre la massima collaborazione, ha detto agli inquirenti, poiché è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite dunque le responsabilità di ognuno. A voi la linea. Grazie dunque anche a Filomena Greco per questi aggiornamenti. Siamo alle cronache dall'immigrazione. Ci sono due sospetti scafisti che sono stati fermati per la morte delle 26 ragazze che hanno perso la vita durante il viaggio verso l'Europa. La nave attraccata a Salerno. Sono previsti nuovi arrivi a Crotone. Sentiamo. Scendono silenziosi quasi tutti eritrei, poi sotto la pioggia intonano un canto di preghiera, si fanno il segno della croce. Sono i 378 migranti a bordo della nave della ONG spagnola Proactiva Open Arms attraccata a Crotone. 60 resteranno in Calabria, gli altri saranno trasferiti in diverse regioni in Italia. Ieri sono stati 375 migranti sbarcati invece a Salerno. Si può parlare di una riapertura della rotta del Mediterraneo centrale? Flavio Di Giacomo, portavoce OIM, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Ci sono stati 2560 salvataggi in 4 giorni la scorsa settimana, quasi tutti nella Libia. Questo vuol dire fondamentalmente che qualcosa sta succedendo in Libia. Questo non vuol dire che c'è un'inversione di tendenza, perché è troppo presto per dirlo. Ieri sulla nave spagnola sono arrivati anche i corpi di 26 giovani donne tra i 14 e i 19 anni, tutte morte nel naufragio di un gommone davanti alla Libia. La procura indaga per omicidio. Un libico e un egiziano sono stati fermati con l'accusa di essere gli scafisti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questa ipotesi che sta circolando ormai da qualche ora di una riapertura, per così dire, della rotta libica a causa delle tensioni che tornano a verificarsi nel paese, torneremo tra poco, ne parleremo con Arturo Varbelli, ricercatore dell'ISPI, che si occupa proprio di Libia, per capire che cosa sta succedendo in quell'area. Restiamo sulla cronaca con il maltempo, i forti disagi, soprattutto in Campania e Calabria, anche nel nord Italia naturalmente, ma l'attenzione in queste ore è concentrata soprattutto sul sud. Sentiamo. Continua il maltempo da nord a sud. Disagi si registrano sulle strade che collegano l'Italia alla Francia. Il tunnel di Tenda è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per un incidente tra mezzi pesanti. Il livello del Po è salito di oltre mezzo metro in sole 24 ore, ma nonostante la pioggia abbia abbassato i livelli di inquinamento, resta a Torino il blocco del traffico. A Venezia l'alta marea ha toccato quota 127 centimetri alle 23.50, non accadeva da 4 anni. Temporali anche al sud, molti i disagi in Campania, automobilisti bloccati e frane nel Salernitano, problemi anche in costiera amalfitana. Nella notte un blackout ha interessato un'ampia area di Napoli e ci sono volute oltre 5 ore per ripristinare l'elettricità. Forti temporali anche a Caserta, dove tra sottopassi allagati e auto in panne l'acqua ha invaso anche alcuni reparti dell'ospedale. Un violento nubifragio si è abbattuto all'alba inoltre su Reggio Calabria, provocando allagamenti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla nuova massiccia diffusione di documenti riservati che hanno a che fare con paradisi fiscali e conti offshore. Come già saprete, sono fatti che hanno riguardato anche la regina d'Inghilterra. Sentiamo. Anche questa volta le carte arrivano da due studi internazionali, uno fondato nelle Bermuda, l'altro con quartier generale a Singapore, a cui si aggiungono i registri di 19 paradisi fiscali, dai Caraibi ad Antigua Malta e così via. 13,7 milioni di file, ottenuti dal tedesco su Deutsche Zeitung e condivisi con i giornalisti di tutto il mondo, che svelano i nomi di VIP e potenti con investimenti offshore, una pratica legale, ricordiamo, se non usata per evadere il fisco, ed ecco che spuntano le cassaforti di 120 politici, tra cui il ministro al commercio di Trump e il tesoriere del premier canadese, e poi il cofondatore della Microsoft, il finanziere Soros e star come Madonna e Bono. Ma a fare più scalpore sono i nomi della regina di Giordania, beneficiaria di due trust nell'isola di Jersey, e della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. A quest'ultima fa capo un immobiliare che gestisce i beni della corona britannica e che ha investito 7 milioni e mezzo di dollari in un fondo alle Cayman. La detta stampa ha fatto sapere che la regina paga volontariamente le tasse. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È in corso il G7 Salute, anzi si conclude oggi il G7 Salute a Milano, lo sta seguendo Adriano Palazzolo. Adriano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Qui al G7 siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia perché ormai oltre mezz'ora fa sarebbe dovuta iniziare la conferenza stampa finale dei ministri del G7 della salute e invece sono ancora riuniti per limare un documento finale dove capiremo se sono state prese delle decisioni o solo delle dichiarazioni di intenti. Tanti sono stati i temi trattati in questi due giorni, dalla lotta alla riduzione della disponibilità di cibo e all'incremento delle morti correlate alla nutrizione, poi il richiamo alle vaccinazioni di massa, le misure per contrastare la vendita online di farmaci illegali e contraffatti e ancora la salute delle donne e degli adolescenti e la ricerca per nuovi antibiotici. Ma ad entrare di prepotenza nelle riunioni dei ministri del G7 Salute è stato l'ambiente, sia per l'impatto che i cambiamenti climatici avranno in misura sempre maggiore sui flussi migratori e sia per le ripercussioni sulla salute dell'uomo di fenomeni atmosferici che una volta definivamo eccezionali e che adesso sono sempre più frequenti: tifoni, uragani, siccità e di conseguenza incendi e smog. E proprio su questo punto pare mancare l'unione tra i 7 grandi, dal momento che Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone e Canada hanno una posizione comune, mentre rimane ferma la posizione degli Stati Uniti sulla discordanza di intenti su come limitare i danni dei cambiamenti climatici. E su questo punto sentiamo Flavia Bustreo, vice direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute delle Famiglie e delle Donne, che ha partecipato ai lavori. E da Milano vi restituisco la linea. Sull'ambiente mi è sembrato di comprendere che durante la notte si sia riusciti ad arrivare ad un accordo in cui c'è un accordo tra i 6 paesi e gli Stati Uniti hanno una posizione un po' defilata. Abbiamo circa 250.000 morti all'anno aggiuntive che sono direttamente legate al cambiamento climatico e poi abbiamo il cambiamento dell'inquinamento atmosferico che da circa 7 milioni di morti aggiuntive e poi abbiamo il cambiamento drammatico delle trasmissioni di malattie infettive. Prima di andare al traffico, un punto sulla giornata sportiva, sul fine settimana sportivo e soprattutto sul campionato. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Eccoci. Le grandi un po' con le gomme a terra, sì. Insomma, ieri, perché abbiamo visto l'Inter davanti a un pubblico pazzesco, 73.000 spettatori a San Siro all'ora di pranzo sotto la pioggia per vedere Inter Torino, un Inter che ha pareggiato 1-1 in rimonta, non è andata benissimo nemmeno per le altre big, perché la Juventus pure in rimonta ha battuto il Benevento che fanalino di coda più che mai, sempre con 0 punti. Il Napoli ha pareggiato 0-0 a Verona con il Chievo. L'unica che ha dato qualche squillo è stata la tua Roma, Simone, perché ha vinto 4-2 a Firenze, campo ovviamente non semplice, questa è una banalità, però si è portata dietro l'euforia, direi l'adrenalina della vittoria sul Chelsea in Champions League. Napoli e Juventus non hanno potuto fare altrettanto dato che i risultati sono stati differenti. Adesso c'è la pausa per la nazionale, la Lazio non ha giocato causa Giove Pluvio, impraticabilità del campo all'Olimpico, bisognerebbe riflettere, magari lo farei anche tu, un po' di gocce di pioggia, un temporale d'autunno e non si gioca all'Olimpico. Vabbè, altri temi, altri discorsi, però il dato politico direi di questa giornata di campionato sono delle squadre piuttosto stanche, con diversi acciaccati, Icardi nell'Inter, Mertens nel Napoli, giocatori comunque importanti, che andranno recuperati in corsa come rifornimenti in volo, perché ci sono le nazionali, andranno in giro per il mondo, c'è ovviamente una sosta che interessa moltissimo l'Italia dato che ci giochiamo questo mondiale nel doppio confronto con la Svezia, però la situazione è questa. La giornata è stata chiusa dal 2-0 del Milan a Sassuolo che certo non è nemmeno parente lontano di quello che abbiamo visto negli ultimi anni, però un farmaco che sportivo che allunga un po' la vita di Montella sulla panchina del Milan. E quindi telenovela destinata a proseguire. Grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Traffico, ci risentiamo tra un attimo, iniziamo il nostro giro d'Italia, anche se non proprio dall'Italia inizieremo, perché cercheremo di farci raccontare che cosa sta succedendo in Libia, perché come ci scrive anche un ascoltatore, sembra che gli arrivi di migranti siano ripresi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta Facebook sulla pagina di Radio 24 e sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente delle elezioni in Sicilia, delle reazioni politiche nazionali, delle indagini sulla resa di Piazza San Carlo, del maltempo e dei forti disagi, dei cosiddetti Paradise Papers e di migranti, dei nuovi arrivi. Ed è su questo tema che torniamo adesso in apertura del nostro Giro d'Italia. Lo facciamo con Arturo Varvelli, che è direttore del programma Nord Africa dell'ISPI. Buongiorno Varvelli, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. C'è qualcuno che sta già scrivendo da qualche giorno in realtà che la rotta dalla Libia si è riaperta. Da quello che risulta a lei è così? No, non pare che sia così. Sappiamo che c'è stato un considerevole calo degli arrivi, diciamo, dal luglio scorso. Da che cosa si è determinato? È una serie di concause, una maggiore capacità e efficienza della Guardia Costiera libica, una serie di pressioni che sono state messe su attori locali sia nel nord del paese, vicino alla costa, sappiamo bene, alcune milizie di Sabrata, e anche alcuni accordi nel sud del paese che sono stati presi in particolare dal governo italiano. Quindi non ci sono segnali di questo tipo in sostanza, Varvelli? I segnali che derivano dalla Libia sono sempre discordanti, quindi che cosa ci dobbiamo aspettare da qua? E anche trovare le fonti giuste in quella situazione, esatto, è difficile. È certamente molto molto difficile. Possiamo affidarci ai dati, cioè i dati ci dicono che da luglio c'è stato notevole diminuzione rispetto agli arrivi dello scorso anno, comparando i due stessi arrivi. Questo certamente lo possiamo dire con sicurezza. Negli ultimi giorni in realtà gli arrivi sono incrementati, ma il punto di transito è ancora la Libia o si stanno spostando? Questa è naturalmente una bella domanda. Da quello che abbiamo visto, in parte sono ancora dalla Libia, perché in Libia vi era stato una sorta di processo di industrializzazione dei traffici, quindi è naturalmente molto difficile in qualche maniera spezzarsi. Sono gruppi di trafficanti che non sono prettamente libici, ma che sono internazionali e in buona parte dei paesi di provenienza dei migranti. I libici davano, diciamo, la loro expertise sul campo, davano un accesso al territorio, costituivano e aprivano dei canali molto molto disponibili e soprattutto era una fonte di sostentamento questi traffici per alcuni miliziani. Quindi alla fine si stava professionalizzando, industrializzando, diciamo, la tratta. Questo in parte è stato rotto, in parte no. È normale che i flussi, essendo flussi e richiamando una liquidità, cerchino altre strade. Abbiamo visto Tunisia, Algeria in parte sono riaperte, anche il Marocco. Naturalmente questi nuovi canali non sembrano avere la capacità che aveva la Libia, certo, fino a luglio, diciamo. La ringrazio, grazie ad Arturo Varvelli, che è direttore del programma Nord Africa dell'ISPI, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Il nostro Giro d'Italia, anche se appunto, come diciamo, questa era stata una tappa un po' particolare del nostro Giro d'Italia, perché ci aveva portato sulle coste libiche, ci porta invece in provincia di Torino adesso. Allora, il 17 dicembre del 1981, scusate se andiamo così indietro nel tempo, le Brigate Rosse sequestrarono a Verona il generale americano James Lee Dozier, comandante della NATO dell'Europa meridionale. Dozier, che poi fu liberato nel Padovano il 28 gennaio dell'82 con un'incursione dei Nox. Sentite quest'audio se ce l'abbiamo, via. Qui, Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente. Giovedì 17 dicembre, un nucleo armato della nostra organizzazione ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo un porco yankee dell'esercito di occupazione americano. È successo questo, è successo in quest'audio che, se volete, possiamo continuare a sentire. In sottofondo, 140 persone hanno rievocato questo momento, ma non per ricordare un momento buio della nostra storia, o forse anche per questo, ma in realtà per un gioco di ruolo organizzato da un'associazione della quale fa parte Aladino Amantini, anzi uno degli animatori. Buongiorno Amantini, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ma ridurre a gioco un momento così buio e così anche vicino della nostra storia non è un po' troppo? Ma in realtà noi non l'abbiamo ridotto a gioco. La componente ludica in questo evento era praticamente assente. Questo tipo di eventi, in inglese si chiamano LARP, in italiano giochi di ruolo, e il termine gioco è molto fuorviante. Noi abbiamo cercato di proporre, anzi abbiamo proposto un evento con tematiche mature e adulte. E a me spiace che non sia passato bene questo messaggio, che viene un po' banalizzato e ridotto a una sorta di guardie e ladri. In realtà no, in realtà abbiamo cercato di fare un lavoro per bene, con approfondimenti storici e anche sociali, ricostruendo. Ma di fatto la ricostruito dell'epoca. Con una squadra, una parte delle persone che erano le Brigate Rosse, una persona che interpretava Dozier, altre persone che interpretavano i Nox, suppongo. E molti che interpretavano dei semplici civili, come la maggior parte della popolazione italiana, presa nel mezzo in questo conflitto, in questi scontri. Allora, noi non lo chiamiamo gioco, Amantini, noi non, sì? Lo chiamiamo, allora, possiamo non chiamarlo gioco, ma voi lo fate per divertirvi questa cosa, non la fate per altro. Allora, il LARP, i giochi di ruolo, nascono e sono degli eventi ludici ricreativi. Ogni tanto ci permettiamo di approfondire il discorso e di affrontare anche temi seri, come in questo caso. E funziona. In base alla mia esperienza, un'esperienza di questo tipo è molto coinvolgente e non dà risposte, ma solleva molte domande e molti dubbi ai partecipanti. È un'occasione di riflessione sugli eventi del passato non troppo lontano. Come hanno reagito le persone che hanno partecipato al gioco? Rapidamente a mattina, perché poi devo chiudere. Certo, allora, quando abbiamo tematiche di questo tipo, la risposta è minore in termini di partecipazione rispetto a eventi puramente ricreativi, ma è stata molto intensa, sono stati tutti soddisfatti e credo che tutti siano tornati a casa arricchiti da questa esperienza. Io la ringrazio, grazie ad Aladino Amantini, che fa parte dell'associazione Terre Spezzate, tra gli autori di questo gioco che si chiama Ultimo Covo. Qualche ascoltatore dice un gioco di pessimo gusto, chiedere ai parenti che cosa ne pensano. Anche questo è uno snodo interessante. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, forse abbiamo giusto lo spazio per i saluti e per qualche altra notizia. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Elezioni in Sicilia, lo spoglio vede Musumeci in vantaggio e testa a testa con Cancelleri, affonda il PD. E Di Maio cancella il confronto con Renzi, non è un competitor, è la replica, scuse ridicole, ha paura. Resta di Piazza San Carlo, primi avvisi di garanzia, sono una ventina in tutto, tra gli indagati la sindaca di Torino e il questore della città. Al tempo forti disagi in Campania e Calabria, torna la neve in quota anche a Cortina. E nuovi arrivi di migranti previsti in giornata, si indaga intanto sulle 26 ragazze morte durante la traversata alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, prima di chiudere abbiamo giusto il tempo per una notizia, se la tecnologia ci assiste e riusciamo ad aprirla. Eccola qua, notizia che arriva dal Belgio, dove si apprende che si svolgerà il 17 novembre alle 14 la prima udienza davanti alla Camera di Consiglio per l'esecuzione del mandato del resto europeo per Carles Puigdemont, presidente deposto della Catalogna. Ci fermiamo, andiamo a sentire il nostro Mario Platero e poi subito dopo i saluti.